Mi sento come fossi solo. Quello che ami lo perdi realmente, perché quanto dovresti non riesci quanto dovresti, proprio quando potresti realmente. Quello che si conquista si perde. Sono il primo a sapere perché, perché essere umani non sempre essere uguali, e tu sei il primo a non essere te. Perché lo so che tu volevi me, quanto volevi che io fossi morto, e che sperano che io mi ammazzi prima di arrivare a ciò che voglio. Il mondo cerca di ammazzarmi, ma finirò per ammazzarmi io, sognando una vita non mia, solo prima che si riempia di polizia. Hai provato a stare solo quanto, solo quando, restare da soli che sta soli cambia. Quante volte già mi sono detto cambio, cambio, lo dico ma in fondo cosa cambio? La mia vita no, sto soffocando, non ci accomando, mi sveglio che è di nuovo maggio. Il più coraggioso qua teme il codardo, ma più non si ha nulla più trovi il coraggio. Ve ne parlo di queste velle che strappo, quando il vento viene va e niente cambia lato. Questa vita guarda come cambia a caso, come cambierà e come ci ha cambiato. Penso come fanno, come non fanno, pensi sia felice con TV via cavo. Pensi che mi bastino questi contratti, solo splendide barriere sì come i coralli. Ma per essere felice poi non è importante, vedo sciogliersi davanti queste tele astratte. Vorrei cambiare tutto con telecomando, ma le persone perse non ritorneranno. Vorrei tornare indietro, ma non si può del tutto. E non pensare ai soldi, anche avendo di tutto. Più guardo queste mani, più tutto sembra assurdo. E le persone intorno, scomparse un giorno è giusto. No, no, no, scomparse un giorno è giusto. No, no, no, scomparsi un giorno è giusto, no. È iniziato tutto a 13 anni e non ho parlato neanche mai dei 13 anni. Io che ho visto i miei soltanto sull'urlarsi addosso, ed io in stanza mia con l'ansia addosso. Il ricordo è chiaro come quando a casa presi il primo cane. Solo chi perde qualcuno sa quanto fa male. Non sarei mai cambiato, ripetevo anch'io questa cazzata, questa cazzata. Ma fino a che là fuori non c'è stato molto, a parte quello che sognavo che ho strappato in fondo, che è lo stesso poi che qua mi ha ristrappato il mondo. Questa vita che dai toglie ma lo stesso giorno. Sai della mia vita no, ricordo solo dirammi chi so, chiedermi come sto, risponde non lo so. Solo senza genitori, con il piatto freddo a casa, il vento freddo fuori, ma sono ancora qui. Ma sono ancora qui. Del tutto, e non pensare ai soldi, anche avendo di tutto. Più guardo queste mani, più tutto sembra assurdo. E le persone intorno, scomparse un giorno è giusto, no. E più cerco di prendere, più perdo, più vedo che il vento qui ci porta via. E nessuno che sa cosa ho visto capirsi, capisce, è solo una bugia. E potrei continuare sta vita, ma presto sta vita farà pulizia. Sognando una vita non mia, solo prima che si riempia di polizia. È la gabbia da avere, spesso i ricordi son meglio. Ricordare quello che hai vissuto realmente, meglio anche di come l'hai vissuto realmente. Stare male è normale, lo vedo, le facce le vedo. Mia madre la vedo, mio padre lo vedo. Pensi il mondo non è questo che pare, ma è vero. Guardando chiedo a me di amare davvero, non so.